Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Effetto giorno di Alessio Maurizi. Scuola oggi, la conferenza delle regioni e il CTS al lavoro per le linee guida definitive a Verbania, un caso positivo e attività didattica sospesa. I conti della crisi: nel secondo trimestre dell'anno il PIL è crollato del 12,8%, mai così in basso dal 1995. Terrorismo: arrestati all'aeroporto di Londra un italiano e un kuwaitiano, il loro volo intercettato dai caccia per una possibile minaccia a bordo. Calcio: Ibrahimovic rinnova il contratto col Milan, Ferrari in crisi e in cerca di una via d'uscita e domenica si corre a Monza. Buongiorno Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. Effetto giorno su Radio 24, ricominciamo dunque oggi lunedì 31 agosto una nuova stagione con tutte le notizie in primo piano. Scuola, oggi è una giornata dove si attendono forse definitivamente le linee guida per la riapertura, a pochi giorni a dire la verità dalla riapertura, con le riunioni della conferenza delle regioni e anche del CTS. Intanto a Verbania, come avete sentito dai titoli, ne parleremo tra poco, c'è già una scuola che deve sospendere l'attività per un caso di coronavirus. In primo piano però anche il maltempo, perché l'allerta resta in alcune regioni. L'allarme è invece rientrato in Alto Adige, l'autostrada del Brennero è riaperta questa mattina. Dicevamo dunque, governo al lavoro per gli ultimi nodi in vista della ripresa dell'anno scolastico. Poco fa il presidente del Consiglio Conte ha detto ancora una volta: riaprire la scuola è la nostra priorità. E stamattina invece ai microfoni di Radio 24 il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Giannelli ha specificato, all'interno di Tutti a Scuola, l'appuntamento del lunedì dedicato proprio alla scuola, che l'autocertificazione per gli studenti minorenni sui 15 giorni precedenti al rientro a scuola non sarà un obbligo di legge. Sentiamo. Mancano 2 settimane al suono della prima campanella e già una scuola viene chiusa per Covid. Si tratta dell'Istituto Superiore Cobianchi di Verbania in Piemonte, dove dal 26 agosto si stanno svolgendo corsi di recupero e dove un utente è risultato positivo e dunque si dovrà procedere con la sanificazione. E intanto sulla gestione dei contagi interviene il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Giannelli, che frena sull'autocertificazione necessaria per l'ingresso a scuola che attesti assenza di sintomi e contatti a rischio. Le scuole potrebbero anche chiedere una tantum, una dichiarazione da parte delle famiglie, quindi non è richiesta minimamente un'autocertificazione, che peraltro dovrebbe essere prevista da una legge che non c'è. Unico obbligo per ora la misurazione della temperatura a casa. Quanto alle mascherine, il comitato tecnico scientifico che si riunisce oggi sta valutando se mantenerle anche quando lo studente è seduto al banco. Altro nodo: i trasporti. Alle 19 conferenza unificata Stato e Regioni sull'organizzazione dei mezzi pubblici, gli scienziati consentirebbero una capienza massima al 75%, le regioni spingono all'80% e chiedono una copertura dei fondi per l'aumento delle linee. E poi la questione dei docenti cosiddetti fragili, che chiedono l'esonero. In arrivo una circolare del Ministero dell'Istruzione e della Salute con i chiarimenti. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E ora sul fronte economico, i dati ufficiali certificano il crollo del PIL nel secondo trimestre di quest'anno. È stato il calo del meno 12,8% rispetto al trimestre precedente, il calo di quasi il 18% se confrontato con lo stesso periodo dell'anno scorso. Sentiamo. Un calo mai registrato dal 1995. Nel secondo trimestre del 2020 il PIL è diminuito del 12,8% rispetto al trimestre precedente e del 17,7% nei confronti del secondo trimestre 2019. Lo sottolinea l'Istat, precisando inoltre che la variazione acquisita per il 2020 è pari a meno 14,7%. Il rialzo invece è l'inflazione su base mensile ad agosto 2020, l'indice nazionale dei prezzi al consumo, per per l'intera collettività lordo dei tabacchi registra un aumento dello 0,3% e una diminuzione dello 0,5% su base annua. Secondo l'allarme di Confcommercio, poi, l'epidemia da Covid-19 brucerà nel 2020 116 miliardi di consumi, con una media di 1.900 euro a testa. A livello nazionale il calo sarà del 10,9% rispetto al 2019. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso, come dicevamo nel sommario, è rientrato per il momento fortunatamente l'allarme per la piena dell'Adige in Alto Adige. È stata riaperta l'autostrada del Brennero tra San Michele e Bolzano, restano invece chiuse la ferrovia e la statale del Brennero a nord di Bolzano. Due turisti tedeschi sono morti in un incidente stradale lungo un percorso alternativo, mentre a Massa lutto cittadino per la morte di due sorelline in un campeggio. A Massa oggi è lutto cittadino per Malak, 14 anni, e la sorella Janet di 3, le due minori marocchine morte ieri in un campeggio mentre erano nella tenda travolta da un albero caduto al culmine della tempesta. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Dopo le piene di ieri in Trentino Alto Adige, il livello dei fiumi è sceso, a Egna i 400 sfollati sono tornati a casa, l'autostrada 22 è stata riaperta, ancora interrotte la ferrovia del Brennero e la statale. Dopo la tempesta di ieri ad Ancona e provincia, vigili del fuoco stamane ancora in azione per i danni, alberi abbattuti, grondaie divelte. Nelle prime ore del giorno la perturbazione ha picchiato sul sud della Sardegna, allagamenti a Cagliari. Le previsioni annunciano per le prossime ore ancora temporali, anche violenti, sul centro Italia. Migliorerà dalla serata un po' ovunque, ma sarà solo una breve tregua. Per Coldiretti questa ondata di maltempo è stata una calamità, alberi da frutta divelti, filari di vigneti abbattuti, serre distrutte e coltivazioni sott'acqua. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso andiamo all'estero. La polizia antiterrorismo britannica ha reso noto di aver arrestato ieri sera un cittadino italiano e uno kuwaitiano all'aeroporto londinese di Stansted. Entrambi erano su un volo della compagnia aerea Ryanair proveniente da Vienna. Non è stata ancora resa nota l'identità dell'italiano di 48 anni arrestato ieri sera dalle forze antiterrorismo britanniche nell'aeroporto londinese di Stansted. Con lui è stato fermato anche un cittadino kuwaitiano di 34 anni. I due erano a bordo di un aereo della Ryanair proveniente da Vienna. Il velivolo è stato scortato a terra da due caccia della Royal Air Force dopo l'allarme lanciato dai membri dell'equipaggio che avevano trovato oggetti sospetti all'interno di una toilette. L'aereo è stato fatto atterrare in un'area isolata dell'aeroporto dove i due sono stati prelevati dagli agenti che li hanno poi fermati sulla base della legge antiterrorismo. Le indagini sono ancora in corso e al momento le autorità britanniche non hanno ancora rivelato l'esatto motivo del loro arresto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora il tema migranti. Gli abitanti dell'isola di Lampedusa minacciano uno sciopero per la presenza oltre i limiti dei migranti sull'isola dopo i tanti sbarchi che sono avvenuti nei giorni scorsi. Tre navi sono in arrivo per trasferire altrove queste persone e alleggerire così la presenza di oltre 1.500 migranti nell'hotspot dell'isola. Lo sciopero generale a Lampedusa si farà, dice il sindaco. L'isola è stata lasciata sola a gestire continui arrivi. La protesta è stata decisa dopo il maxi sbarco di ieri del peschereccio salpato dalla Libia con a bordo 370 persone originarie prevalentemente del Bangladesh e del Senegal. Stanotte il governo ha mandato due navi che hanno alleggerito di circa 300 le presenze sull'isola, ma dopo i trasferimenti di stanotte restano a Lampedusa 1.219 migranti. Questa mattina non ci sono stati avvistamenti a causa del cattivo tempo. Ancora sbarchi invece in Calabria, a Rocella Ionica, 48 migranti di origine siriana, iraniana e afghana sono approdati a bordo di una barca a vela. Lo scafista è un ventenne ucraino arrestato. Così come erano ucraini gli scafisti di due sbarchi sempre in Calabria il 4 di agosto e il 24 di luglio. Restano in mare intanto le navi delle ONG. Sulla Sea-Watch ora si trovano 350 persone. Ed è verosimile che comincerà ora un nuovo braccio di ferro per individuare un porto e la redistribuzione dei naufraghi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora il punto sull'emergenza Covid in Italia. Prosegue il calo dei nuovi contagi, altri 1.365 in un solo giorno, a fronte di oltre 80.000 tamponi effettuati. 4 i decessi registrati ieri. Molti dei nuovi casi sono di importazione da paesi come Spagna, Grecia, Croazia e Malta. Ma quali sono i controlli che si stanno facendo negli aeroporti italiani? A Fiumicino, fa sapere l'assessore alla sanità del Lazio, D'Amato, per la prima volta sui test rapidi ci sono stati 0 positivi. A Milano Malpensa, dove in media arrivano 3-4 mila passeggeri dai paesi a rischio, la macchina dei controlli è avviata, così dice l'assessore al welfare della Lombardia, Giulio Gallera. Lo sentiamo al microfono di Rosanna Magnano. Prima di tutto, da subito abbiamo organizzato la nostra rete di poliambulatori. L'80% delle persone che arrivano dai 4 paesi a rischio non arrivano con l'aereo, ma arrivano con le navi, arrivano con i treni, con le macchine, con i pullman. Organizzato questa macchina, nell'arco di pochi giorni abbiamo messo in campo le aree tamponi all'interno degli aeroporti. Quanti passeggeri intercettate? All'INATE tutti coloro che arrivano fanno il tampone. A Malpensa siamo arrivati a farne dal 19 di agosto al 30 17.825, con punte di 2.000 tamponi il 23 agosto e anche ieri eravamo a 1.900. Quindi. Che cosa pensa dell'iniziativa della Regione Lazio di tamponare tutti i passeggeri dei voli Roma-Milano? L'idea di far partire un volo in sicurezza con la certezza che nessuno è positivo è un'idea corretta, che condivido. È chiaro che oggi mancano gli strumenti per poterlo fare, cioè questi famosi test rapidi, ma lì è la scienza. I nostri ricercatori individuino o testino e rendono affidabili questi test rapidi. 13:11, torna effetto giorno e torna anche Carlo Genta per lo sport. Carlo, che non era mai in realtà andato via. No, tutti convocati. Ha continuato a Convocare ascoltatori, certo. per tutta l'estate, certamente. Per il tanto movimento che c'è stato quest'estate. E che c'è ancora. Questa è la settimana sicuramente di Monza, la delusione delle Ferrari, però stanno a parlare anche di nazionale di calcio e anche un po' di calciomercato, quello sempre. Beh, certo, sempre, anche perché insomma entra nel vivo con nomi veri importanti che si muovono, con il Milan protagonista che soffia Tonali all'Inter, che se lo lascia soffiare perché è impegnata in altri acquisti, da Vidal a Kolarov, gente matura pronta per vincere subito. Poi c'è il grandissimo intrigo Messi, che tiene col fratto sospeso la Spagna, però un po' anche tutti gli altri. Adesso è battaglia tra Messi e la Liga, che ha detto no, quella clausola recessoria da 700 milioni andrà pagata, cosa che non capiterà. Però è muro contro muro ormai tra Messi, il Barcellona e il calcio spagnolo. Quindi, come vedi, di argomenti ce ne sono tanti. È la settimana che ci porta a Monza. Senza dimenticare che c'era anche Misano per le moto, quindi l'Italia per le prossime 2 settimane sarà davvero il centro del mondo dei motori, con la Formula 1 che correrà a Monza e poi a Mugello in un Gran Premio particolarmente significativo, perché circuito di casa, la prima volta lì, sarà il Gran Premio numero 1000 della Ferrari, una Ferrari raramente così depressa nella storia, quindi... ieri a Spa forse la peggior figura stagionale, 13°-14°, senza possibilità di replica, di fare alcunché, di ostacolare in alcun modo non solo Hamilton ma anche tutti gli altri. Quindi si va a Monza con diverse preoccupazioni, con un umore che dire nero è poco. Cercando di trovare in tutti i modi nelle tasche un antidepressivo. Sì, cercandolo in qualche modo. In fondo, a meno che non siano già finiti, perché queste le ultime stagioni sono state cose da prozac che altro. Grazie Carlo, ciao, appuntamento con te naturalmente come tutti i pomeriggi alle 14 con tutti i convocati. Noi invece, per quanto riguarda la prima parte, la sintesi della giornata di oggi, facciamo una pausa, torniamo con effetto giorno tra poco con tutte le altre notizie. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Parleremo ancora di Covid naturalmente nelle scuole, soprattutto per quanto riguarda anche l'attesa delle riunioni di oggi, la conferenza delle regioni, del CTS, poi anche di rete unica nazionale, fibra parliamo, perché oggi dovrebbero arrivare delle novità importanti per quanto riguarda anche questo aspetto. A tra poco. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Scuola, conferenza delle regioni e CTS al lavoro per le linee guida definitive. Intanto a Verbania un caso positivo e attività didattica sospesa, ne parliamo tra poco. Il crollo del PIL durante l'emergenza coronavirus nel secondo trimestre è stato del 12,8%, mai così in basso dal 1995. Calcio: Ibrahimovic rinnova il contratto col Milan, Ferrari in crisi e in cerca di una via d'uscita, domenica si corre a Monza. Eccoci qua, cari ascoltatori, 13:17 minuti, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Dunque, come abbiamo anticipato, torniamo a parlare di emergenza Covid, in particolare a scuola. C'è moltissima attesa, direi quasi frenesia ormai, per la riapertura, che in alcune regioni sarà il 14, in molte altre, soprattutto dove si vota, avverrà tra il 22 e il 24 di settembre. C'è già però una scuola che ha dovuto fermarsi, parliamo dei corsi di recupero, ma questo accade a Verbania, all'Istituto Cobianchi. È con noi il vicepresidente dell'Istituto Superiore Cobianchi di Verbania, Mauro Agrati. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno a lei, grazie. Allora, diciamo, il contesto è questo: oggi ci saranno due nuove riunioni della conferenza delle regioni, in particolare sul tema del nodo dei trasporti. Ne abbiamo parlato anche questa mattina nel nostro nuovo appuntamento Tutti a Scuola su Radio 24, ogni lunedì all'interno di Uno Nessuno 100 Milan. E poi l'altro appuntamento è quello del Comitato Tecnico Scientifico, che dovrebbe uscire con le linee guida definitive anche su un aspetto importante come per esempio quello delle mascherine, soprattutto per gli studenti liceali, perché sembra che possa essere ancora, diciamo, in forza l'obbligo durante le lezioni, escluso invece per gli studenti inferiori. Al netto di tutte queste considerazioni, nel vostro istituto è uscita la notizia oggi, c'è stato un caso e avete dovuto interrompere le attività didattiche che in questi giorni, professore, se non sbaglio, sono legate quasi soltanto ai corsi di recupero, giusto? Allora, i corsi di recupero sarebbero dovuti cominciare domani, il 1° di settembre. Noi sabato pomeriggio siamo stati contattati da un responsabile dell'ASL che ci ha comunicato che un utente, una persona che era entrata in istituto è risultata positiva. A questo punto gran parte del lavoro l'ha fatto l'ASL, ha contattato le poche persone che sono entrate in contatto con quest'altra persona e le ha sottoposte, credo nella giornata di oggi, a tampone. Ecco, la buona notizia potrebbe, no, si potrebbe dire, diciamo, commentando così un po' ironicamente, superficialmente, è che i controlli funzionano, l'ASL è attiva, sorveglia e vi avvisa attraverso quale meccanismo? Quello del tracciamento dei positivi, cioè dei contatti che hanno avuto i positivi, è questo che è successo? Il responsabile dell'ASL ci ha contattato immediatamente sabato pomeriggio, sì, e ci ha chiesto conferma delle persone con cui poteva essere stato contattato questo soggetto. Noi abbiamo confermato e di conseguenza hanno chiesto dei riferimenti, diciamo dei recapiti, noi li abbiamo forniti e si sono impegnati nel giro di un paio d'ore ad avvisare tutti. Diciamo che è funzionato in maniera egregia, voglio dire. C'è da dire un'altra cosa, che noi fortunatamente, essendo una scuola molto grande, avevamo distribuito in aule molto lontane tra loro gli studenti che sì, partecipavano o ai corsi PON oppure sostenevano gli esami integrativi di idoneità. Ecco, allora perché poi siete, diciamo, dovuti in qualche modo arrivare alla misura più drastica, cioè quello in qualche modo di così è stato, diciamo, comunicato, sospendere l'attività? Perché vogliamo essere sicuri che vogliamo innanzitutto far sanificare i locali, che non sono tantissimi per fortuna, dove questa persona ha stazionato durante questa settimana. Non vogliamo assolutamente far correre rischi né al personale né tanto meno agli studenti. Diciamo che questa interruzione e sospensione dell'attività didattica, che di fatto oggi non ci sarebbe stata, per cui sì, diciamo è domani, e io penso che nel giro di 2 o 3 giorni la situazione potrebbe tornare. Diciamo, avete deciso di chiudere, di sospendere, visto che il costo di questa sospensione, il costo, diciamo, operativo era basso, perché non sostanzialmente la scuola era assolutamente era ferma. Senta, le chiedo anche questo: in base a quali tipo di linee guida avete preso questa decisione? Perché al momento, a quel che sappiamo, ma c'è molta confusione anche, bisogna dirlo, alimentata anche da continua fuga di notizie da parte della stampa, ma diciamo la fonte poi sono il CTS e il governo, insomma, no? su quelle che sono le linee guida. Attualmente in base a cosa ci si muove nelle scuole? Ma allora, dire il buon senso sarebbe un'offesa a chi ci governa, però comunque diciamo che lavoriamo anche col buon senso in attesa di avere delle linee guida assolutamente definitive. Per cui lo scopo primario era quello di non mettere a rischio la salute di nessuno, per cui tanto più che questi corsi di recupero che noi avremmo iniziato il 1° di settembre, noi possiamo procrastinarli, iniziarli più tardi e farli durare anche tutto l'anno scolastico, per cui non c'era niente di improrogabile. Senta, le voglio chiedere prima di salutarci, professora Grati, un'ultima cosa per quanto riguarda la vostra scuola, al di là del caso che è accaduto e che insomma, in 2 o 3 giorni si risolverà con la sanificazione delle aule. E in attesa appunto delle ultime decisioni sulle linee guida, quali sono le criticità maggiori che il vostro istituto sta riscontrando? Immaginate di riscontrare alla riapertura, parlo delle aule se sono sufficienti, parlo dei banchi monoposto, allora, parlo del gel, delle mascherine. Diciamo che noi come scuola ci siamo organizzati lavorando tutta l'estate per cercare di innanzitutto di limitare magari l'afflusso degli studenti, per cui gli studenti delle classi basse, intendo le prime e le seconde, seguiranno sicuramente le lezioni in presenza, mentre invece gli studenti del triennio li faremo seguire le lezioni in modo alternato, una settimana in presenza e una settimana in Meet, in sostanza. E questo in modo, diciamo, che è la misura che avete adottato per evitare di incorrere nel problema della distanza. Questo aiuta noi come istituto perché abbiamo tanti studenti, ma aiuta anche le aziende di trasporti ovviamente. Per quanto riguarda i dispositivi, mascherine, gel che dovevano in qualche modo essere reperiti, se non addirittura forniti dalle istituzioni centrali, com'è la situazione? No, questi ce ne hanno dotati. Sì, ci sono, per cui non c'è nessun problema da questo punto di vista. Adesso si tratta di stabilire alcuni dettagli. Bene. Voglio dire, in questo momento pare che le mascherine possano essere tolte al momento in cui il ragazzo è seduto al proprio posto e ha una distanza superiore al metro rispetto al vicino di banco. Ecco. Sì, la questione si potrebbe porre per gli studenti, diciamo, più grandi, sicuramente per i più piccoli dovrebbe essere questa la soluzione, e oggi o al massimo domani dovrebbe arrivare, anche perché ormai il tempo è scaduto, una soluzione definitiva, una linea guida definitiva da parte del CTS. Professora Grati, grazie per essere stati con noi, buona giornata. Parleremo naturalmente tantissimo di scuola in questi giorni, e lo ricordo anche con il nuovo appuntamento di Radio 24, tutti a scuola, Maria Piera Ceci all'interno di Uno Nessuno 100 Milan. Adesso invece un altro argomento che oggi dovrebbe, diciamo, dovrebbero esserci delle notizie, dovrebbero arrivare delle novità sul fronte, parliamo della rete unica, la rete in fibra, la rete nazionale per le comunicazioni internet veloci. Dovrebbe esserci un passaggio importante con i consigli di amministrazione di Telecom Italia, della Cassa Depositi e Prestiti, per l'operazione, diciamo, di rete unica. Ne parliamo con il collega del Sole 24 Ore, Andrea Biondi. Ciao Andrea, ben ritrovato. Ciao, ben ritrovati, eccoci. Allora, che cosa dovrebbe essere deliberato oggi o che cosa dovrebbe essere approvato? Ricordiamo un po' come si arriva a questo momento di svolta che vede impegnati proprio i CDA di queste due società. Sì, esatto, sono TIM e Cassa Depositi e Prestiti. Per quanto riguarda TIM, si arriverà a deliberare la nascita di FiberCop, questa società che avrà, diciamo, in pancia la rete secondaria di TIM, cioè l'ultima parte, il cosiddetto ultimo miglio, quello che dal cabinet va alle case degli italiani, e con diciamo, la parte in rame che poi dovrà trasformarsi nel tempo in fibra, perché è un po' questo il cuore del progetto, quindi ci sarà la definizione di questa società in cui entrerà il fondo americano KKR e Fastweb all'interno del capitale. Questo dovrebbe essere il primo tassello della costituzione di quella che poi dovrà diventare la società unica delle reti, mettendo insieme gli asset di TIM e di Open Fiber. Però questo è un passaggio successivo. Il passaggio di oggi è quello appunto della costituzione della società FiberCop e diciamo da parte della Cassa Depositi e Prestiti ci sarà anche il memorandum con cui che sarà utilizzato da TIM e Cassa Depositi e Prestiti nei prossimi mesi per arrivare proprio alla definizione di questa seconda partita, quella della rete unica fra TIM e Cassa TIM e Open Fiber. Allora, naturalmente ci sono anche gli aspetti tecnici complessi che poi insomma cerchiamo sempre di raccontare, di spiegare, andando invece dal punto di vista diciamo, più generale, Andrea, anche un po' delle strategie, ma anche dei punti di vista, sappiamo c'è stato un dibattito anche politico abbastanza articolato, no? Sull'opportunità di procedere a questa fusione, di creare questo tipo di rete unica, di seguire questo modello pubblico-privato. Ti chiederei di ricordarci velocemente quali sono un po' le posizioni in campo, ma anche quali sono le variabili che poi nel prossimo futuro potrebbero incidere per, come dire, far cambiare pelle o dare una veste definitiva a questo progetto. Ok, sì. Allora, sicuramente terrei presente due cose. Il progetto della costituzione di FiberCop è un progetto tutto interno a Telecom che porterà, in base al quale, insomma, Telecom vuole cablare in 1600 comuni, vuole portare la fibra in 1600 comuni entro il 2026 per il 55% dell'Italia, dunque in FTTH, cioè nella fibra fino a casa. Quindi quello è un punto. Dopodiché c'è il tema del mettere insieme le forze fra TIM e Open Fiber e creare una società unica delle reti per non disperdere le forze e dare all'Italia, almeno questo è il principio anche politico, per dare all'Italia una rete degna di questo nome e in grado di supportare tutti i servizi dalla scuola a distanza a tutto l'audiovisivo, tutto quel che serve, insomma i servizi, supportare quei servizi che necessitano di banda ultralarga. Qual è il tema? TIM ultimamente, l'ha detto già dalla primavera, ma è stato incisivo anche negli ultimi tempi un'intervista dell'amministratore delegato Luigi Gubitosi, ha detto ok, tutto questo si può fare, ma TIM dovrà avere un ruolo guida. Dall'altra parte ci sono i competitor che hanno messo in evidenza che questa posizione di TIM è per loro irrealizzabile perché eventualmente nel caso in cui venisse a crearsi una società unica delle reti sarebbe come ritornare a un monopolio de facto. Nel frattempo è intervenuta la politica facendo presente con varie interviste Patuanelli, il ministro Patuanelli, ma poi è intervenuto anche Il ministro Gualtieri, facendo presente che la società dovrà avere una trazione pubblica. A questo punto sembra che si sia trovato un escamotage e sarà il punto sul quale lavorare, su cui TIM e CDP dovranno lavorare in questi mesi. L'escamotage sarebbe quello di creare una società con maggioranza Telecom, 50,1-51%, ma con una governance a trazione CDP, in modo da garantire quell'indipendenza e quella terzietà che viene richiesta. Questo sarebbe il punto di equilibrio al quale si è arrivati dopo questa serie di valutazioni di carattere strategico, aziendale, ma anche politico. Andrea Biondi, io ti ringrazio, ti ritroveremo naturalmente più avanti, già credo stasera, domani, per la cronaca di questi consigli di amministrazione, TIM e Cassa Depositi e Prestiti, per il via libera all'operazione della rete unica. 13:29, facciamo una piccola pausa, tornano tra poco il punto di Alberto Rioli e anche soprattutto Giulia Crivelli, Effetto Mondo, che è stata insomma in vostra compagnia in questi giorni sui palinsesti di Radio 24, ma la ritroviamo oggi per la lettura dei giornali internazionali dentro Effetto Giorno, a tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Scuola, conferenza delle regioni e CTS al lavoro per le linee guida definitive a Verbania. Un caso positivo e attività didattica sospesa. Il crollo del PIL durante l'emergenza coronavirus nel secondo trimestre è stato del 12,8%, mai così in basso dal 1995. Terrorismo, arrestati all'aeroporto di Londra, un italiano e un kuwaitiano, il loro volo intercettato dai caccia per una possibile minaccia a bordo. Calcio, Ibrahimovic rinnova il contratto col Milan, Ferrari in crisi in cerca di una via d'uscita, domenica si corre a Monza. Il punto di Alberto Orioli. L'autunno è cominciato, lo dice il dato del PIL diffuso oggi, meno 17,7% nel secondo trimestre dell'anno rispetto all'anno prima. Sono i tre mesi del lockdown più duro, naturalmente, quelli della glaciazione dell'economia, ma il dato è peggiore delle attese che già erano fosche. Ciò che conta però è altro, il governo ha davanti sfide epocali da gestire in pochissime settimane, il decreto semplificazioni che ridisegna le regole per gli appalti per il rilancio degli investimenti, il via al decreto agosto con i suoi 25 miliardi in più di deficit e i suoi provvedimenti attuativi, ancora fermi nei cassetti dei ministeri. Il governo poi dovrà mettere a punto anche la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza e sbozzare quindi la prossima manovra di bilancio che si annuncia nelle intenzioni fatta solo di tagli. Ma soprattutto bisognerà organizzare un vero piano di ripartenza con i progetti da presentare all'Europa per ottenere quei 209 miliardi di euro che l'Unione ha deciso di garantirci proprio per far ripartire il Paese. È questa la vera sfida. Dimostrare che saremo capaci di programmare e di investire bene guardando lontano soprattutto. Purtroppo siamo già in ritardo e ciò che è peggio ci stiamo presentando impreparati alla ripartenza della scuola che era di fatto il primo test e ciò che è peggio siamo in campagna elettorale perché il 20-21 settembre si vota per le regionali e per il referendum sul taglio dei parlamentari e la politica quindi continua a guardare il proprio ombelico, non certo l'orizzonte. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.